Ad alta voce, leggere il Decamerone. Andreuccio da Perugia, prima parte. Andreuccio da Perugia, venuto a Napoli a comperar cavalli, in una notte da tre gravi accidenti soprapreso, da tutti scampato, con un rubino si torna a casa sua. Cominciò la fiammetta alla quale del novellare la volta toccava. Le pietre da Landolfo trovate m'hanno alla memoria tornata una novella, non guari meno di pericoli in sé contenente che la narrata dalla Lauretta, ma intanto differente da essa, in quanto quelli forse in più anni e questi nello spazio di una sola notte addivennero, come udirete. Fu, secondo che io già intesi, in Perugia, un giovane il cui nome era Andreuccio di Pietro Cozzone di Cavalli, il quale, avendo inteso che a Napoli era buon mercato di cavalli, messisi in borsa 500 fiorin d'oro, non essendo mai più fuori di casa stato, con altri mercatanti, là se ne andò, dove, giunto una domenica sera in sul vespro, dall'oste suo informato, la seguente mattina fu in sul mercato, e molti ne vide, e assai ne gli piacquero, e più mercato tenne, né di niuno potendosi accordare, per mostrare che per comperar fosse, siccome rozzo e poco cauto, più volte in presenza di chi andava e di chi veniva, trasse fuori questa sua borsa dei fiorini che aveva. E in questi trattati stando, avendo esso la sua borsa mostrata, avvenne che una giovane siciliana, bellissima, ma disposta per piccol pregio a compiacere a qualunque uomo, senza vederla egli, passò appresso di lui e la sua borsa vide e subito seco disse. Chi starebbe meglio di me? Se quegli denari fosser miei. E passò oltre. Era con questa giovane una vecchia similmente siciliana, la quale, come vide Andreuccio, lasciata oltre la giovane andare, affettuosamente corse ad abbracciarlo. Il che, la giovane veggendo, senza dire alcuna cosa, da una delle parti la cominciò a attendere. Andreuccio, alla vecchia rivoltosi e conosciutala, le fece gran festa e, promettendogli essa di venire a lui all'albergo, senza quivi tenere troppo lungo sermone, si partì. E Andreuccio si tornò a mercatare, ma niente comperò la mattina. La giovane, che prima la borsa d'Andreuccio e poi la contezza della sua vecchia con lui aveva veduta, per tentare se in modo alcuno trovar potesse a dover avere quelli denari, o tutti o parte, cautamente incominciò a domandare chi colui fosse, o donde e che qui vi facesse e come il conoscesse. La quale ogni cosa così particolarmente dei fatti d'Andreuccio le disse, come avrebbe per poco detto egli stesso, siccome colei che lungamente in Sicilia col padre di lui e poi a Perugia dimorata era, e similmente le contò dove tornasse e perché venuto fosse. La giovane, pienamente informata e del parentado di lui e dei nomi, al suo appetito fornire con una sottil malizia, sopra questo fondò la sua intenzione, e a casa tornatasi, mise la vecchia in faccenda per tutto il giorno, acciò che a Andreuccio non potesse tornare, e, presa una sua fanticella, la quale essa assai bene a così fatti servigi aveva ammaestrata, in sul vespro la mandò all'albergo dove Andreuccio tornava. La qual, quivi venuta, per ventura lui medesimo e solo trovò in sulla porta, e di lui stesso il domandò, alla quale, dicendole egli che era d'esso, essa, tiratolo da parte, disse: «Messere, una gentil donna di questa terra, quando vi piacesse, vi parleria volentieri». Il quale, vedendola, tutto postosi mente e parendogli essere un bel fante della persona, s'avvisò questa donna a dover di lui essere innamorata, quasi altro bel giovane che egli non si trovasse allora in Napoli, e prestamente rispose che era apparecchiato, e domandolla dove e quando questa donna parlargli volesse, a cui la fanticella rispose: «Messere, quando di venir vi piaccia, ella v'attende in casa sua». Andreuccio presto, senza alcuna cosa dir nell'albergo, disse: «Or via, mettiti avanti, io ti verrò appresso». Laonde la fanticella a casa di costei il condusse, la quale dimorava in una contrada chiamata Malpertugio, la quale, quanto sia onesta contrada, il nome medesimo il dimostra. Ma esso, niente di ciò sapendo né suspicando, credendosi in uno onestissimo luogo andare e a una cara donna, liberamente andata la fanticella avanti, se ne entrò nella sua casa, e salendo su per le scale, avendo la fanticella già la sua donna chiamata e detto: «Ecco Andreuccio», la vide in capo della scala farsi a aspettarlo. Ella era ancora assai giovane, di persona grande e con bellissimo viso, vestita e ornata assai orrevolemente, alla quale, come Andreuccio fu presso, essa incontro gli da 3 gradi discese con le braccia aperte e avvinghiatogli il collo, alquanto stette senza alcuna cosa dire, quasi da soperchia tenerezza impedita. Poi, lacrimando, gli basciò la fronte e con voce alquanto rotta disse: «Oh, Andreuccio mio! Tu sei il benvenuto!» Egli, maravigliandosi di così tenere carezze, tutto stupefatto rispose: «Madonna, voi siate la bentrovata!» Ella appresso, per la man presolo, s'uso nella sua sala il menò, e di quella, senza alcuna altra cosa parlare, con lui nella sua camera se ne entrò, la quale di rose, di fiori d'aranci e d'altri odori tutta oliva, laddove egli un bellissimo letto incortinato e molte robe su per le stanghe, secondo il costume di là, e altri assai belli e ricchi arnesi vide. Per le quali cose, siccome nuovo, fermamente credette lei dover essere non men che gran donna, e postisi a sedere insieme sopra una cassa che a piè del suo letto era, così gli cominciò a parlare: «Andreuccio, io sono molto certa che tu ti maravigli e delle carezze le quali io ti fo e delle mie lacrime, siccome colui che non mi conosci e per avventura mai ricordar non mutisti, ma tu udirai tosto cosa la quale più ti farà forse maravigliare, sì, come è che io sia tua sorella. E dicoti che, poiché Dio m'ha fatta tanta grazia che io, anzi la mia morte, ho veduto alcuno dei miei fratelli, come che io desideri di vedervi tutti, io non morrò a quella ora che io, consolata, non muoia. E se tu forse questo mai più non udisti, io te l'vo dire. Pietro, mio page, è tuo! Come io credo che tu abbi potuto sapere, dimorò lungamente in Palermo e per la sua bontà e piacevolezza vi fu e è ancora da quelli che il conobbero amato assai. Ma tra gli altri che molto l'amarono, mia madre, che gentil donna fu e allora era vedova, fu quella che più l'amò, tanto che, posta giù la paura del page e dei fratelli e il suo onore, in tal guisa con lui si dimesticò che io ne nacqui e sonne qual tu mi vedi. Poi, sopravvenuta cagione a Pietro di partirsi di Palermo e tornare in Perugia, me, con la mia madre, piccola fanciulla, lasciò. Né mai, per quello che io sentissi, più né di me né di lei si ricordò. Di che io, se mio padre stato non fosse forte, il riprenderei, avendo riguardo alla ingratitudine di lui verso mia madre mostrata, lasciamo stare allo amore che a me, come a sua figliuola, non nata d'una fante né di vil femmina, dovea portare, la quale le sue cose e sé parimente, senza sapere altrimenti chi egli si fosse, da fedelissimo amor mossa, rimise nelle sue mani. Ma che le cose malfatte e di gran tempo passate sono troppo più agevoli a riprendere che a emendare. La cosa andò pur così. Egli mi lasciò piccola fanciulla in Palermo, dove, cresciuta quasi come io mi sono, mia madre, che ricca donna era, mi diede per moglie a uno da Gergenti, gentile uomo e da bene, il quale, per amore di mia madre e di me, tornò a stare in Palermo. E quivi, come colui che è molto guelfo, cominciò a avere alcuno trattato col nostro re Carlo, il quale, sentito dal re Federico prima che dare gli si potesse effetto, fu cagione di farci fuggire di Sicilia, quando io aspettava essere la maggior cavalleressa che mai in quella isola fosse, donde prese quelle poche cose che prender potemmo, poche dico per rispetto alle molte le quali avevamo, lasciate le terre e li palazzi, in questa terra ne rifuggimmo, dove il re Carlo verso di noi trovammo sì grato che, ristoratici in parte li danni li quali per lui ricevuti avevamo e possessioni e case ci ha date e dà continuamente al mio marito e tuo cognato, che è buona provisione, sì come tu potrai ancor vedere. E in questa maniera son qui, dove io, la buona mercè di Dio, e non tua, fratel mio dolce, ti veggio. E così detto, da capo il rabbracciò e ancora teneramente lagrimando gli baciò la fronte. Andreuccio, udendo questa favola così ordinatamente, così compostamente detta da costei, alla quale in uno atto moriva la parola tra i denti, né balbettava la lingua, e ricordandosi esser vero che il padre era stato in Palermo, e per sé medesimo dei giovani conoscendo i costumi, che volentieri amano nella giovanezza, e veggendo le tenere lacrime, gli abbracciari e gli onesti baci, ebbe ciò che ella diceva più che per vero. E poscia che ella tacque, le rispose: Madonna, egli non vi deve parer gran cosa se io mi maraviglio. Perciò che nel vero, che mio padre, perché che egli se il facesse, di vostra madre e di voi non ragionasse già mai, o che, se egli ne ragionò, a mia notizia venuto non sia, io, per me, né una coscienza aveva di voi, se non come se non foste. E mi tanto più caro l'avervi qui, mia sorella trovata, quanto io ci sono più solo, e meno questo sperava. E nel vero, io non conosco uomo di sì alto affare al quale voi non doveste essere cara, non che a me, che un picciolo mercatante sono. Ma d'una cosa vi prego mi facciate chiaro. Come sapeste voi che io qui fossi? Questa mattina me il fe sapere una povera femmina, la qual molto meco si ritiene, perciò che conosco padre, per quello che ella mi dica, lungamente e in Palermo e in Perugia stette. E se non fosse che più onesta cosa, mi parea che tu a me venissi in casa tua, che io a te dell'altrui. Egli a gran pezza che io a te venuta sarei. Appresso queste parole, ella cominciò distintamente a domandare di tutti i suoi parenti nominatamente, alla quale di tutti Andreuccio rispose, per questo ancora più credendo quello che meno di credergli bisognava. Essendo stati i ragionamenti lunghi e il caldo grande, ella fece venire Greco e confetti e fe dar bere a Andreuccio, il quale, dopo questo, partir volendosi, per ciò che ora di cena era, in una guisa il sostenne, ma sembiante fatto di forte turbarsi, abbracciandol disse: «Ahi, lassame, che assai chiaro conosco come io ti sia poco cara, che a pensare che tu sii con una tua sorella mai più da te non veduta e in casa sua, dove qui venendo smontato esser dovresti e vogli di quella uscire per andare a cenare all'albergo, di vero tu cenerai con esso meco». E perché mio marito non ci sia, di che forte mi grava, io ti saprò bene, secondo donna, fare un poco d'onore. Alla quale Andreuccio, non sapendo altro che rispondersi, disse: «Io vo cara quanto sorella si dea avere. Ma se io non ne vado, io sarò tutta sera aspettato a cena e farò villania. Lodato sia Iddio se io non ho in casa per cui mandare a dire che tu non sia aspettato, benché tu faresti assai maggior cortesia e tuo dovere mandare a dire a tuoi compagni che qui venissero a cenare. E poi, se pure andare te ne volessi, ve ne potresti tutti andar di brigata». Andreuccio rispose che dei suoi compagni non volea quella sera, ma poiché pure a grado l'era, di lui facesse il piacer suo. Ella allora fe vista di mandare a dire all'albergo che egli non fosse atteso a cena. E poi, dopo molti altri ragionamenti, postisi a cena e, splendidamente di più vivande serviti, astutamente quella menò per lunga infino alla notte obscura. E essendo da tavola levati e Andreuccio partir volendosi, ella disse che ciò in niuna guisa sofferrebbe, perciò che Napoli non era terra d'andarvi per entro di notte e massimamente un forestiere, e che come che egli a cena non fosse atteso, avea mandato a dire, così aveva dello albergo fatto il somigliante. Egli, questo credendo e dilettandogli, da falsa credenza ingannato, d'esser con costei, stette. Furono adunque, dopo cena, i ragionamenti molti e lunghi, non senza cagione tenuti, e, essendo della notte una parte passata, ella, lasciato Andreuccio a dormire nella sua camera con un piccol fanciullo che gli mostrasse se egli volesse nulla, con le sue femmine in un'altra camera se n'andò. Glossario. Andreuccio di Pietro Cozzone di Cavalli, il quale... Cozzone. Significa sensale di cavalli, dal latino volgare cocio. E in questi trattati stando, avendo esso la sua... Trattati. Trattato equivale qui a trattativa. La frase significa dunque essendo in tali trattative. La borsa d'Andreuccio e poi la contezza della sua vecchia con lui aveva veduta... Contezza. Significa dimestichezza, familiarità. Il termine deriva dall'aggettivo conto, noto, a sua volta derivato dal francese antico quant, corrispondente al latino cognitus, participio passato di conoscere, e dunque noto, conosciuto. La giovane, pienamente informata e del parentado di lui e dei nomi, al suo appetito fornire con una sottil malizia, sopra questo fondò la sua intenzione. E a casa tornata... La frase corrisponde a «La giovane, informata sulla sua famiglia e sul suo nome, per soddisfare la propria cupidigia con sottile astuzia, fondò il proprio piano sulle informazioni ricevute dalla vecchia». «Una gentil donna di questa terra, quando vi piacesse...» «Terra». Terra indica qui la città. Ed altri odori tutta oliva, laddove egli un bellissimo... Oliva. È l'imperfetto di olire, dal latino olere, e significa odorare, olezzare. Per sapere una povera femmina, la qual molto meco si ritiene, perciò che conosco padre, per quello che ella mi dica. La frase corrisponde a «si intrattiene molto con me». Ritenersi deriva dal latino retinere, che vuol dire trattenere, tenere indietro. La Sicilia e i siciliani, come in questa novella la giovane prostituta siciliana, che inganna Andreuccio, ma siciliana sarà anche un'altra cortigiana traditrice, Madama Iancofiore, sono sempre per il Boccaccio, come del resto per i suoi contemporanei toscani, compresi Dante e il Petrarca, la Sicilia e i siciliani, con un'assimilazione regressiva che muta la S iniziale latina, Siciliam, nella seconda C. Esplicito in proposito il Villani. L'isola è oggi da loro chiamata Sicilia, e da noi italiani Sicilia. Ma la forma latineggiante prevarrà nella lingua nazionale. Non così per Firenze. A prevalere in questo caso sarà invece la forma locale fiorentina. Il Boccaccio chiama la sua città ora con il nome più alla latina Fiorenza, come nell'introduzione. Nella egregia città di Fiorenza, oltre a ogni altra italica bellissima, certo in sintonia con il tono sostenuto del discorso, ora e normalmente con il nome corrente Firenze. Questa forma, che presenta una riduzione del gruppo protonico io al suo primo elemento, analogo il caso di piviale da pioviale, non era quella comune a tutta la Toscana antica, bensì era specifica di un'area limitata, quella del distretto fiorentino e pratese fino a San Gimignano e Volterra. A Siena, Arezzo, Cortona e nella Toscana occidentale, Lucca e Pisa, erano comuni le forme col dittongo io, Fiorenza e Fiorenza, dunque.